Ed eccoci qua, torniamo in diretta. Vi ricordo che state ascoltando Attimi Sfatti. Questo è il martedì femminista e lesbico autogestito. Abbiamo sentito una compagna da Bologna che ci ha raccontato gli ultimi sviluppi della situazione con Atlantide, che ricordiamo è sotto sgombero. Ricordiamo anche l'appuntamento di questo venerdì 11 a Piazza Re Enzo alle 18 a Bologna. Ma da Bologna arriviamo alla nostra città. Ma l'argomento non cambia, nel senso che rimaniamo, diciamo, in presidi non sgombero. Appunto c'è il presidio mercoledì 9 aprile alle ore 8 in via dei Volsci 22 per il 22, che resiste ormai da anni, resiste da 4 anni. Abbiamo qui una compagna in studio che insomma un po' ci racconta com'è la situazione in questo momento e dopo appunto 4 anni e appunto magari ci dà appuntamento per mercoledì. Ciao a tutte e in particolare alle compagne di Atlantide, a cui mandiamo la nostra solidarietà e tanta forza per le nostre lotte, soprattutto separate. E, purtroppo la situazione non migliora, perché da 4 anni a questa parte continuiamo a fare quasi mensilmente i presidi davanti alla sede, perché appunto siamo sotto sgombero. Mo non sto a spiegarvi tutta la situazione perché è piuttosto anche noiosa, per cui se volete dettagli particolari su tutta la storia e tutto quanto le trovate sul nostro blog 22 resiste noblogs.org e lì potrete leggervi con calma tutti i comunicati che abbiamo mandato in questi 4 anni, da cui poi appunto si evince tutta la storia. Se leggete gli ultimi in realtà è molto chiaro. Diciamo che la situazione è peggiorata negli ultimi mesi perché continuamente da un lato abbiamo gli attacchi, diciamo, bombaroli, non lo so se è sufficiente, ma anche sessisti, certo. E molto distruttivi, tanto che uno degli ultimi a gennaio ha messo, diciamo, in crisi due delle pareti della sede, e quindi abbiamo cominciato a fare dei lavori grossi, cioè abbiamo praticamente ricostruito un muro e dato le malte, l'intonaco, quindi ci siamo armate di pazienza e anche forza fisica, così abbiamo fatto queste giornate di lavori. Adesso dovremo fare delle iniziative per alzare dei soldi, ovviamente per coprire le spese. Ovviamente questo non è ancora tutto, perché dobbiamo comunque sostituire la porta, quindi insomma siamo in costante fermento, sì, certo. Ristrutturazione. E poi un'altra delle cose è che, diciamo che all'ultimo tentativo di accesso sono venuti i soliti ufficiali giudiziari eccetera, però la proprietà ha chiesto la forza pubblica, che non è venuta. Diciamo che siamo un po' più allerta del solito, perché avendola chiesta l'ultima volta probabilmente la chiederanno anche domani, quindi invitiamo tutte le compagne a venire al presidio domani mattina davanti alla sede dalle 8 in poi, e per appunto essere in tante e chiaramente fino a questo momento più siamo state, siamo sempre riuscite ad essere abbastanza, e può essere che questa sia una delle ragioni per cui il commissariato di San Lorenzo non ha mandato la forza pubblica, e cioè non ha concesso la forza pubblica che appunto l'ultima volta è stata chiesta. E poi diciamo che più di tanto non si riesce mai a capire se non il giorno stesso, certo. Però diciamo che una delle cose da fare è sempre essere presenti. E poi mi dimenticavo di dire che è nato recentemente il progetto Archivia. Del progetto Archivia, c'è un gruppo di noi, stiamo riorganizzando tutti i materiali che sono stati accumulati negli anni al 22 e dai vari collettivi, tutti i gruppi che sono passati, sì, tutti comunque i gruppi per che la sono sede. Passati per la sede, esattamente, femministi e lesbici, e l'idea è quella di riorganizzarli poi per renderli accessibili a tutte quelle che vogliono, perché spesso poi sono cose appunto che sono solo cose di movimento, quindi è difficile trovarle, sono materiali spesso fotocopiati, cose che magari ci sono nelle case delle compagne, però non, spesso non li puoi andare non a vedere, sono fruibili. Esatto, e quindi l'idea è quella di riorganizzare il tutto per poi aprire la sede. Adesso ovviamente non sappiamo ancora con che tempi e in che modalità, però insomma prossimamente, quando questo materiale sarà abbastanza riordinato, pensavamo già di cominciare ad aprire e poi comunque contemporaneamente portare avanti la riorganizzazione. Certo, che è un modo anche per ricostruire la storia del 22, certo, della sede, sì, proprio sì, che è fisicamente minacciata, sì, da due, diciamo, diversi attacchi, e quindi comunque invece è stata attraversata ed è attraversata da realtà anche insomma da collettivi, da gruppi diversi che insomma hanno fatto di quella sede il posto dove poter fare, diciamo, svolgere le loro attività, fare la loro battaglia, conoscersi, insomma approfondire anche certi argomenti. Quindi sembra un progetto molto interessante. Speriamo che, di riuscire, e comunque tanto se ci dovessero per qualche ragione sgomberare, poi rioccuperemo, quindi certo, non c'è problema, insomma. Ma speriamo di no. E quindi niente, vi ridiamo appuntamento domani, certo, dalle 8 in poi. Allora, dalle 8 domani in via dei Volsci 22, per chi non lo conoscesse, il 22 resiste, quindi è importante perché è un presidio, uno sgombero, quindi insomma c'è bisogno della presenza di tutte. Grazie, grazie. Ciao.